Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora una violenza sessuale a Trieste, vittima una donna aggredita in ascensore da un giovane tunisino. Minorenni vittime e aguzzini, lo psicologo insegnare da piccoli i concetti di rispetto, rifiuto e consenso. Tuffo nel lago a Sappada, 17enne di Trieste sbatte contro il fondo di sassi, soccorsi due escursionisti tedeschi. Scelta di continuità per la Lega regionale dal congresso, la conferma di Dreosto alla guida della segreteria. Educazione finanziaria a Trieste in viaggio con la Banca d'Italia, Miramare il governatore Visco. Il friulano Pecile, primo italiano alla guida della navetta Virgin Galactic per i nuovi turisti dello spazio. Udinese, partenza di stagione opaca, per Sottil la squadra si deve ancora assemblare, prossima gara a Cagliari. 7:19 minuti di lunedì 4 settembre, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6, a Trieste 19,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24,5 gradi, a Pordenone 20,5 gradi, a Udine 18 gradi, a Gorizia 17,5. A Tolmezzo 13,5 gradi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 13 gradi, a Tarvisio 11 gradi, a Sappada 9. Sul Monte Zoncolan 12 gradi, sul Monte Lussari 11, sulla costa a Lignano 23,5 gradi, 23 a Grado, temperatura del mare nelle due località 25 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Il cielo sarà in genere poco nuvoloso, probabilmente anche sereno sulle zone sudorientali, dove soffierà bora moderata. Al mattino possibile maggiore nuvolosità sulle zone al confine col Veneto e nel Tarvisiano. In apertura alla cronaca, dunque, due casi di violenza sessuale a distanza di poche ore l'uno dall'altro. A Trieste, dopo quello su una minorenne avvenuto in piazza Vittorio Veneto, è successo di nuovo, vittima questa volta una donna. L'uomo che avrebbe tentato di abusare di lei è un 21enne tunisino. Una donna che non abita lontano dal centro diurno di via Udine è stata seguita in pieno giorno da un uomo fino nell'ascensore della sua abitazione. Chiuse le porte, l'uomo si è spogliato e l'ha aggredita. La donna è riuscita a liberarsi dall'aggressore quando le porte dell'ascensore si sono riaperte e lui quindi è scappato. Arrestato dai carabinieri, si trova in carcere, indagato per tentata violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Interrogato dal GIP, il 21enne tunisino, ospite di casa Malala, si è difeso dicendo che era stato invitato dalla donna a seguirlo, una versione smentita però dalle telecamere della zona. Gianfranco Schiavone, presidente dell'ICS che si occupa della mediazione culturale a Casa Malala, non nasconde che la maggioranza dei migranti che attraversano la rotta balcanica e anche quanti sono ospitati a Casa Malala provengono da culture dove il ruolo della donna è spesso molto diverso rispetto a quello della società occidentale, ma ciò non può giustificare alcun tipo di violenza. Questi casi vanno trattati con molto rigore, non ci può essere nessuna giustificazione di carattere culturale, ma non ci può essere parimenti nessuna strumentalizzazione di carattere nazionale. Il tema drammatico della violenza sulle donne è un tema generale che riguarda le nostre società. Specifica anche che a Trieste sono migliaia i migranti in transito. Secondo i suoi dati, l'anno scorso ce n'erano 14.000, una città nella città. Numeri, sottolinea, che non hanno cambiato le statistiche delle violenze. Certamente bisogna fare un lavoro di rielaborazione culturale di alcuni atteggiamenti che possono essere diversi. Noi lo facciamo nei limiti delle nostre possibilità, perché ricordo che le nuove previsioni di legge addirittura tolgono i corsi di italiano nei centri di accoglienza. È una previsione incredibilmente sciocca, ma forse bisognerebbe chiedere al governo che cosa vuol fare togliendo i corsi di italiano e quindi anche i corsi di educazione civica. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E parliamo degli altri episodi di violenze sessuali avvenuti di recente, 4 negli ultimi 2 mesi, di cui 2 di gruppo. Spesso i minorenni non sono solo le vittime, ma anche gli aguzzini, un fenomeno su cui intervenire, secondo gli esperti, a partire dalle scuole e dalle famiglie, anche col supporto della psicologia. Dobbiamo insegnare queste regole basiche: amare l'altro, amare il corpo dell'altro, proteggere il corpo dell'altro, rispettare il corpo dell'altro. Educare. I recenti casi di cronaca che hanno coinvolto minorenni, con 4 casi di violenza sessuale in poche settimane, di cui almeno 2 di gruppo, come accaduto a Prosecco, preoccupano l'opinione pubblica. Per Aldo Becce, psicologo ed ex giudice onorario, non una sorpresa che questi reati avvengano anche nella tranquilla Trieste, lontano da situazioni sociali difficili. Per la prevenzione, un ruolo chiave lo può avere l'educazione affettiva, insegnando fin da piccoli concetti come rispetto, rifiuto e consenso esplicito. Il rifiuto ha a che vedere con il non consenso. Il non consenso è molto chiaro. Tentare di far capire ai ragazzi di mettersi nei panni dell'altro, perché questo è l'amore. E l'amore è capire l'altro. Secondo lo psicologo, all'interno di una cerchia di amici è difficile per la vittima cogliere segnali di pericolo, soprattutto per una ragazza giovane, anche perché, come nel caso di Prosecco, sono ragazzi con cui si è cresciuti a diventare orchi, e per questo motivo non è giusto parlare di branco. L'umiliazione propria dell'uomo, quindi questo corrisponde all'uomo. Più che branco, io lo chiamo gruppo patologico. La società deve reagire immediatamente, uscendo dalla logica della giustificazione del colpevole, inaccettabile, così come la colpevolizzazione della vittima. Per rispondere davanti alla giustizia dell'atto enorme che hanno fatto. E se dopo tutto quel processo loro possono veramente arrivare a un pentimento, ci siamo riusciti. Quindi lavoriamo con la persona che è stata attaccata per accompagnarla psicologicamente, lavoriamo con il gruppo per far cambiare per sempre quella idea. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. A Sappada, grave infortunio ieri per un 17enne di Trieste che si è procurato ferite e traumi alla testa dopo un tuffo finito male nel Lago Grande d'Olbe. A quanto riferito, voleva fare un doppio salto mortale, ma ha battuto sul fondo di sassi dello specchio d'acqua prima di averlo completato. Difficoltose le manovre dell'eliambulanza a causa della turbolenza presente in quel momento. Il ragazzo, che nel frattempo era stato tirato fuori dall'acqua su una sponda in pendenza, ma era ipotermico e molto provato per la ferita, è stato stabilizzato, imbarellato e trasferito all'ospedale di Udine. I due escursionisti ventenni tedeschi sono stati soccorsi e recuperati ieri sera nella zona del Rio degli Uccelli sopra Pontebba, dopo essere partiti dal Monte Corone in Austria e aver seguito il sentiero 521. A un certo punto hanno perso la traccia e nel tentativo di trovare una soluzione sono risaliti, finendo in un luogo impervio, su un terreno roccioso friabile in mezzo alla vegetazione. Non è stato semplice avvistarli per l'elisoccorso regionale attivato dalla SORES. Erano vestiti di scuro e in una zona in ombra. Una volta individuati lì a 400 metri, l'elicottero ha calato con il verricello 2 soccorritori. I giovani, molto spaventati, data la posizione precaria e apparentemente senza via d'uscita, sono stati alleggeriti degli zaini e aiutati a spostarsi in sicurezza, tracciando delle tacche sul pendio fin dove era più facile il recupero con il verricello. Ora la politica, una scelta nel segno della continuità per la Lega regionale. Dal congresso a Martignacco assente, il leader Salvini, intervenuto in videochiamata, è arrivata la conferma del senatore Marco Dreosto alla guida della segreteria del Friuli Venezia Giulia. I vice saranno scelti prossimamente dallo stesso Dreosto. Nel direttivo regionale sono stati eletti Michele Leon, Pierpaolo Roberti, Stefano Mazzolini, Graziano Pizzimenti e Anna Maria Cisint. Un solo candidato, Marco Dreosto, eletto segretario regionale della Lega per acclamazione. Parole d'ordine, continuità e compattezza al congresso di Udine, che ha eletto anche componenti del direttivo regionale e i delegati per il prossimo congresso nazionale, minimizzate le recenti frizioni in seno alla maggioranza su alcuni temi come la gestione dei migranti. Tutte queste discussioni sono nate nel mese di agosto, è un mese in cui purtroppo ci si incontra poco e io non vedo grandi divisioni, vedo che c'è la necessità evidentemente di mettersi attorno a un tavolo, prendere in mano questi dossier e assieme condividere un percorso che prima di tutto sia a salvaguardia della nostra regione. Massimiliano Fedriga, presidente della regione. La Lega è sempre stata unita ed è anche in questo congresso lo ribadisce. Antonio Calligaris, consigliere regionale della Lega. È un congresso appunto unitario di lavoro e di preparazione ai prossimi impegni elettorali. Guarda già alle europee il ministro Salvini, intervenuto in videocollegamento. Dobbiamo riequilibrare una Unione Europea sbilanciata a sinistra. I nostri avversari stanno a sinistra, ha ribadito Dreosto, ma a giugno 2024 si riproporrà la sfida, l'ultimo voto, con gli alleati di Fratelli d'Italia. Elena Lizzi, europarlamentare della Lega. Ovviamente puntare ad avere un grande successo di nuovo e quindi dando anche la possibilità al territorio friulano di contare molto in un ambiente che ormai determina le priorità a livello di agenda politica internazionale. Approvata una mozione per ribadire la contrarietà ad un'acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Pizzimenti e Dreosto presenteranno un emendamento per evitare la possibile nomina di un commissario straordinario di governo agli investimenti strategici. Graziano Pizzimenti, deputato della Lega. Vigileremo se ci sarà un commissario, ma non è detto che ci sia, e con quale mandato viene in Friuli Venezia Giulia, certamente non per fare l'acciaieria in quel posto lì. Martignacco, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Fatappa Trieste in viaggio con la Banca d'Italia per saperne di più su economia e finanza. Dopo l'open day di ieri, oggi alle 11.30 incontro sulla tutela della clientela bancaria e finanziaria nella sala maggiore del Palazzo della Borsa. Alle 15.30 nello stesso luogo mercato del lavoro tra presente e futuro, demografia, formazione e politiche pubbliche. Infine alle 18 al Castello di Miramare l'incontro del governatore Ignazio Visco con la comunità scientifica regionale. Voltiamo pagina. L'8 settembre dal New Mexico partirà la navetta Virgin Galactic per il terzo volo spaziale con passeggeri paganti. Ai comandi per la prima volta un italiano, il friulano Nicola Pecile. L'intervista è di Andrea Bettini di Rai News. Nel volo suborbitale del 29 giugno, con a bordo due rappresentanti dell'aeronautica militare e un ricercatore del CNR, era stato il copilota. Ora il cinquantenne friulano Nicola Pecile siederà per la prima volta sull'altro seggiolino, comandante della navetta Unity di Virgin Galactic, la compagnia privata di Richard Branson. Partenza e rientro dal New Mexico con tre turisti paganti a bordo, destinazione circa 85 km di altezza. Il mio primo volo l'ho fatto nel seggiolino di destra, è molto diverso questa volta perché sarò ai comandi del veicolo in tutta la fase del volo. Sgancio da un aereo madre, ascese e rientro. Ogni volo dura una dozzina di minuti. Costo di alcune centinaia di migliaia di dollari, circa 800 le persone che hanno già acquistato un biglietto. Se dal punto di vista fisico sei una persona normale, non è richiesto nient'altro se non 3 giorni di addestramento che generalmente effettuiamo qui a Spaceport America, che è la sede primaria in cui poi voleranno. Con la nostra navetta attuale che si chiama Unity prevediamo di volare una volta al mese per i prossimi mesi e probabilmente i prossimi 2 anni. Quando avremo le navette nuove che le stiamo chiamando Delta Class, con quelle ne avremo ovviamente molte di più, riusciremo a volare una volta al giorno e quindi sicuramente le attività poi diventeranno una routine. Guardando ancor più lontano, è possibile che questi siano i primi passi di un nuovo sistema di trasporto aereo. Se vogliamo volare da Los Angeles a Roma in un'ora, l'unico modo di poterlo fare è probabilmente un volo suborbitale. Potrebbe questa tecnologia essere poi esportata su un veicolo futuro del genere che magari potremmo vedere fra 20 anni e quindi accorciare le distanze sulla Terra in maniera considerevole. Oggi al Trieste Marine Terminal il varo ufficiale della MSC Nicola Mastro, tra le navi portacontainer più grandi ed efficienti al mondo dal punto di vista ambientale e dei consumi. La nave, da oltre 24.000 TEU di capacità, è da 2 giorni a Trieste. È stata costruita da un cantiere cinese. E sarà inaugurata oggi la nuova laurea magistrale in cittadinanza, istituzioni e politiche europee del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. Formerà professionisti multidisciplinari dotati di conoscenze nelle discipline giuridiche, economiche, politico-sociali, storiche e linguistiche e caratterizzati dall'attitudine a relazionarsi con una dimensione inter- e sovranazionale. I laureati potranno trovare occupazione in realtà pubbliche e private in funzioni che richiedono la conoscenza di istituzioni e normative europee, dalla progettazione alla gestione di fondi europei all'organizzazione di procedure e attività che applicano normative europee e le implementano nei contesti nazionali e regionali. Il corso risponde ad un'esigenza particolarmente sentita nel mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia, dove le aziende sono sempre più coinvolte nelle dinamiche europee. Il GAL Carso Lascras sta coordinando un percorso di animazione territoriale e coprogettazione partecipata per avviare il nuovo piano di sviluppo locale del Carso Triestino e Goriziano 2023-2027. Cittadini e imprese del Carso stanno partecipando al questionario online La Vendemmia delle Idee per portare proposte e progetti per lo sviluppo futuro di queste aree. Il GAL Carso Lascras tradurrà poi le riflessioni e i suggerimenti raccolti in bandi con finanziamenti dedicati a imprese, enti e cittadini. Al momento al questionario online sono arrivate risposte da quasi 250 cittadini. Oggi alle 18 un incontro nel quale si approfondiranno i distretti del cibo e delle filiere agroalimentari del Carso. Appuntamento a Opicina alla ZKB, Banca di Credito Cooperativo. Studiosi provenienti da Europa, Stati Uniti, Israele, Brasile, Australia e Nuova Zelanda si riuniscono oggi e domani nell'Ateneo Friulano per la terza conferenza internazionale sulle applicazioni terapeutiche dell'ossido nitrico nel cancro e nelle malattie infiammatorie, proposta dalla International Society for Nitric Oxide and Cancer. Obiettivo dell'evento, che prevede la partecipazione di una quarantina di relatori, è quello di approfondire le ultime scoperte relative al ruolo dell'ossido nitrico in diverse patologie per favorire lo sviluppo di nuovi trattamenti farmacologici. Ne abbiamo parlato con Valentina Rapozzi, docente del Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine, organizzatrice locale dell'evento, assieme ai professori Luigi Xodo, sempre dell'Ateneo Friulano, e Benjamin Bonavida della University of California di Los Angeles. L'ossido nitrico è un messaggero chimico, è una molecola gassosa che si comporta anche come radicale libero. Agisce in diverse pathway di segnali, quindi vie di modulazione, che servono fisiologicamente in diversi processi, ad esempio vasodilatazione, poi neurotrasmissione, infiammazione e altri processi relati a diverse poi patologie che possono insorgere in un individuo. L'ossido nitrico è importante perché attraverso il meccanismo d'azione possiamo valutare come questo può agire nei vari processi, diciamo, metabolici e molecolari, e quindi trovare dei nuovi target per diverse patologie. Quali possono essere i suoi impieghi in ambito medico? Possiamo trovare dei donatori di ossido nitrico, quindi vengono sintetizzate delle molecole con la capacità di rilasciare questa molecola gassosa, oppure anche degli inibitori. C'è un primo studio proprio in clinica, si sta eseguendo in Texas, a Houston, con la relatrice che verrà qui da noi, la professoressa Jenny Chang, che sta appunto portando come trial clinico queste molecole, questi inibitori di questo gas. La concentrazione del gas è molto importante, di questa molecola gassosa, perché a seconda se ci sono alti o bassi livelli, alla fine porta dei risultati diversi. E quindi è un po' un gioco di capire in determinati tipi di patologie come tumore o piuttosto malattie infiammatorie o anche malattie neurodegenerative, quindi vascolari, come i livelli di ossido nitrico presenti per poterli poi modulare. L'ossido nitrico di per sé noi non possiamo inibire il suo rilascio, ma possiamo utilizzare appunto queste molecole inibenti la pathway, la via molecolare che porta alla sintesi dell'ossido nitrico, oppure aumentare la sua quantità a seconda del tipo di patologia con questi donatori. Le basi cellulari e molecolari dell'invecchiamento e i più recenti sviluppi della ricerca scientifica in questo campo sono i temi che saranno affrontati da oggi a partire dalle 15 a mercoledì 6 settembre all'Università di Udine nella Summer School Molecular Basis of Aging. L'iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Area Medica, si terrà nell'aula convegni del Polo Medico in Piazzale Colbe 4. L'evento si potrà seguire anche da remoto. Interverranno studiosi dell'Università di Cambridge, delle americane Washington University e Brown University, dell'Università di Colonia, dell'Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare, IFOM, e del CNR di Milano. E al via la 47esima scuola estiva di glottologia e linguistica Lignano Sabbia d'Oro. Da oggi a giovedì nel complesso Bella Italia partecipano 42 giovani studiosi provenienti da atenei italiani ed esteri. L'iniziativa formativa, ideata dal glottologo e docente Roberto Guzmani, è organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine in collaborazione con la Società Italiana di Glottologia. Non edizione per il talent show friulano di beneficenza Si tu ses bon, totalmente organizzato da ragazzi dai 15 ai 24 anni, al fine di raccogliere fondi per l'associazione La Casa di Gioia ODV di Udine, che si occupa di sostegno ai bambini con malattie oncologiche e aiuto alle loro famiglie. L'ideatore e direttore artistico Matteo Trogu ci ha raccontato come nel 2015 è nata l'iniziativa. Dall'idea di qualche ragazzo di 14 anni per dare alla città un evento nuovo, un evento che raccogliesse non solo talenti musicali ma talenti un po' in tutti gli ambiti artistici. Infatti da quella volta ad oggi sul palco di Si tu ses bon si presentano artisti come cantanti ma anche maghi, anche attori, ballerini e qualsiasi tipo di talento qualcuno abbia da mostrare. L'intento è sempre stato quello di fare beneficenza. Abbiamo iniziato con una parrocchia e poi ci siamo spostati nel mondo dell'associazionismo. Infatti dal 2017 tutto il ricavato di questo evento viene devoluto all'associazione La Casa di Gioi, che è un'associazione di Udine che si occupa di bambini con malattia oncologica. Fin dall'inizio l'evento è sempre stato un evento organizzato da ragazzi. Siamo partiti in 5, oggi il gruppo organizzativo arriva ad un numero di circa 18 ragazzi dai 15 ai 24 anni ed è sempre stata una scelta che ho voluto mantenere io, quella di avere un'organizzazione giovanile, perché volevamo sempre dimostrare che i ragazzi possono e sanno fare quando vogliono. Ha tagliato il traguardo dei 7 secoli e mezzo di vita la Fiera dei Osei di Sacile. Organizzarla è difficile, dice la Prologo, ma non vogliamo abbandonare la tradizione. Ha tagliato il traguardo dell'edizione numero 750 la Sagra degli Osei di Sacile. L'antica fiera ornitologica ha richiamato nel centro cittadino 40.000 visitatori con appassionati anche dall'estero. Lorena Bina è presidente della Proloco di Sacile. 750 anni sicuramente di storia e di tradizione che non vogliamo perdere neanche in momenti in cui diventa difficile organizzare mostre e fiere settoriali come la nostra. I visitatori sono stati migliaia in questi 10 giorni di eventi. L'anno scorso erano circa 40.000, io credo che ci attestiamo su quei numeri con dei picchi importanti soprattutto nelle aree che ospitano gli animali da cortile e tantissime presenze straniere perché abbiamo ospitato l'internazionale di Chioccolo. Signor Poiana, che cosa ci fa sentire? Un bel merlo all'alba. Proclamato come di consueto anche il tordo nazionale, vincitore Mariano Signor con il tordo Lino. Da dove nasce questa sua passione? Nel sangue, sì, generazione di uccellatori noi di famiglia. C'è interesse su questi uccellini perché hanno dei colori fantastici, è un uccellino da compagnia. Come si chiama? Diamante di Gold. È ancora richiesta? Meno adesso. I giovani non hanno più voglia, perché qua per avere animali bisogna perdere tanto tempo, rinunciare tante volte anche le vacanze. Nessun presidio di protesta, ma gli animalisti Meta confermano la loro contrarietà a quella che definiscono mercificazione di animali in gabbia spacciata per tradizione. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti: nella sede della Scuola Sperimentale dell'Attore a Pordenone la sessione finale aperta al pubblico a conclusione del workshop I 4 centri dell'attore, condotto da Jaroslav Fret e Monica Vakovics. Alle 19 in Piazza della Motta, in caso di pioggia all'Auditorium Concordia, Noi Artisti di San Vito al Tagliamento con Teatro alla Sete di Udine presenta Destini Disarmati. Alle 21.15 nella chiesa dell'ex convento di San Francesco la seconda replica dello studio teatrale su morte e amore dal titolo Sheol con Monica Vakovics. Per Notte del Timavo, incontri sintonizzati a San Giovanni in Tuba, l'orchestra Officina Musicum Venezia proporrà simbologia bacchiana con l'esecuzione della prima parte, la seconda il prossimo anno dei concerti brandeburghesi, terzo, quarto e sesto, e una introduzione dedicata alla numerologia in Bach a cura del direttore dell'orchestra Riccardo Favero. Ad Avostanisavi, la caccia di lestizia di Beat of Freedom, la Resistance in Fumet di e con Marta Cuscunà, illustrazioni live Fabio Babic, alle 21. Questa sera, dopo la presentazione della nuova stagione di Teatro Contatto alle 18 al Palamostre di Udine, il debutto di Contro Natura, la performance installazione di Giacomo Cossio. Inaugurazione della mostra permanente I miei pupoli, Gaetano Canizza, scienziato e artista, alle 13 all'Università di Trieste nell'edificio A, secondo piano in Piazzale Europa. L'esposizione anticipa il calendario di eventi organizzati per il centenario dell'Università. Al DoubleTree by Hilton Hotel di Trieste, a cura di Le Vie delle Foto, inaugura oggi la mostra fotografica di Laura Beghin, Semplicemente Venezia. La rassegna sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 23 fino al 24 settembre. Passiamo allo sport con il calcio. Sa di dover lavorare tanto Mister Sottil per rendere davvero competitiva l'Udinese. A confermarlo l'opaco pareggio dell'altra sera 0-0 in casa contro il Frosinone. Al Friuli la musica di inizio stagione è cambiata. 2 punti nelle prime 3 partite per l'Udinese, lontana dall'essere la sorpresa d'autunno dello scorso campionato. Beccao, Udogi e Beto non sono calciatori qualunque, lo dimostrano i prezzi di vendita, e tantomeno Pereira in mezzo al campo. L'Udinese è pericolosa soltanto con Tovene, con i tiri da fuori area di Samardžić, le certezze di Sottil che sa di dover lavorare tanto. Sono sereno, tranquillo, perché so, li alleno tutti i giorni e quindi per tante cose questa squadra si deve ancora conoscere bene, assemblare, però sono convinto che adesso anche con l'inserimento dei nuovi, con il recupero di qualche infortunato, io penso che la rosa diventerà più competitiva. Fra i nuovi c'è Christian Cabasele, 32enne belga di origini congolesi, ad essere tra i più pronti. Suo il salvataggio che tiene in piedi alla fine l'Udinese. Ho trovato una bella squadra, una bella città. Il mister è esigente con me per aiutare la squadra. Devo lavorare perché la Serie A non è facile. Dopo il pareggio con il Frosinone c'è la pausa per gli impegni delle nazionali. Alla ripresa la gara con il Cagliari, più di una trasferta alla quarta di campionato. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il basket: saranno gli Stati Uniti battuti ieri dalla Lituania, i prossimi avversari dell'Italbasket del coach triestino Gianmarco Pozzecco. Si gioca domani alle 14:40. Gli azzurri tornano ai quarti di finale dei mondiali dopo 25 anni grazie alla netta vittoria ottenuta a Manila su Porto Rico per 73-57 in una partita condotta quasi sempre in controllo. Ottima la prova dell'altro triestino Stefano Tonut, per lui 15 punti. Non ci credeva nessuno, neanche i miei pensavano che saremmo arrivati fin qui, ma non conoscono questi ragazzi, sono stati meravigliosi, ha detto Pozzecco dopo il match con Porto Rico. Credo che sia una delle pagine più belle della nostra pallacanestro. Un quarto di finale iridato che, come detto, mancava all'Italia dal mondiale del 98, edizione in cui scese in campo lo stesso Pozzecco. Anche allora l'Italia ai quarti incrociò gli Stati Uniti. Serie C al via con il posticipo di oggi anche per la Triestina, che affronta il Trento allo Stadio Rocco alle 20:45. Si è detto soddisfatto del mercato mister Attilio Tesser nella conferenza stampa della vigilia, per l'arrivo di un difensore importante a sinistra come Rocchetti, ma anche degli altri giocatori. Tesser ha parlato di un gruppo giovane con qualche tassello d'esperienza e tanti stranieri, e di un lavoro da completare nel minor tempo possibile per l'inserimento di tutti. Ancora calcio: in Coppa Italia di Serie D, nel derby friulano, primo turno vinto dal Chioschi, ha battuto ai rigori il Charlin Smuzzane per 4-1. Il brianzolo Francesco Galimberti ha vinto il 59esimo giro del Friuli Venezia Giulia. Secondi e terzi in classifica generale rispettivamente Raffaele Mosca e l'olandese Owen Gelein. L'ultima tappa, partita da Sesto a Reghena, invece è andata al messicano Carlos Garcia, che ieri pomeriggio ha tagliato il traguardo sul Colle di San Giusto a Trieste. Dietro di lui, beffati a soli 2 chilometri dall'arrivo, il campione del mondo Under 23, il francese Axel Laurence e Federico Iacomoni. Sofia Rocchetti ha vinto ieri a Trieste il suo primo ITF in finale contro la croata Eva Primorac. La tennista marchigiana si è aggiudicata l'11ª edizione della CMG Tennis Cup, torneo internazionale femminile con montepremi da $25.000 organizzato dalla polisportiva Mare Monti sui campi del Tennis Club triestino. Dopo un primo set estremamente equilibrato, con nessun atleta che è riuscita ad avvantaggiarsi in maniera consistente sull'altro, l'altra si è arrivati all'inevitabile tie break. Rocchetti è partita a razzo portandosi sul 4-0, ma la croata ha reagito conquistando 5 punti consecutivi per poi cedere a 5-7. Nella seconda frazione la tennista che si è allena Tolentino si è portata subito sul 4-0 per poi imporsi per 6-1. Primorac era arrivata in finale anche nel 2014 perdendo con Bianca Turati. Il bresciano Andrea Mabellini ha trionfato su Skoda al 36esimo rally di Piancavallo, favorito anche dal quasi immediato ritiro del marchigiano Simone Campedelli. Da lì in poi Mabellini si è limitato a gestire il vantaggio, cedendo la scena al comasco Corrado Fontana. Ma nel finale Mabellini non ha più concesso spazio a Fontana, andando a vincere con quasi 10 secondi di distacco totale. Terzo gradino del podio per il pordenonese Luca Rossetti. E ora la rassegna stampa. In apertura sul Piccolo di Trieste, la svolta in diocesi. Il vescovo sceglie la nuova squadra. Monsignor Trevisini diventa vicario al posto di Salvadè. Da quasi 30 anni era il tesoriere della curia. Nella fotonotizia in alto una denuncia, alla sera chiusi in casa in piazza Perugino. I residenti parlano di risse, droga e soprusi. Per la politica, dopo il congresso regionale, Dreosto resta alla guida della Lega, serve unità. In cronaca sfilano gli atleti di oggi per i 100 anni dello Zaria a Basovizza, celebrato ieri il secolo di vita del sodalizio dell'Altipiano. E poi ammaliati dai marmi e dalle stanze segrete di Banca Italia, oltre 200 persone guidate dai volontari FAI all'Open Day. Per la cultura Suban tutto iniziò da una vincita, la storia della trattoria nata da un colpo di fortuna del capostipite Giovanni con 10 figli. Infine lo sport con il basket e l'impresa dell'Italia del Pozzo e di Tonut. L'economia rallenta sarà la sfida dell'autunno, titolo principale sulla prima del Messaggero Veneto di Udine per l'intervista al governatore Fedriga. Accanto con una foto, soccorso alpino gratuito ancora per poco, gli irresponsabili pagheranno, solo la nostra regione e la Liguria offrono totale gratuità, si pensa a come stabilire la compartecipazione alle spese. Di spalla le dottoresse argentine al pronto soccorso di Udine, resteremo in Italia, dicono, e a ottobre arriveranno altri 2 medici dal Sud America. Ad aprire la cronaca cittadina è però la polemica sull'ipotesi di un nuovo infopoint per turisti negli spazi di Palazzo d'Aronco, dove c'era la boutique Tonini. Sotto auto si ribalta mentre fa retromarcia su un tornante, successo a Pontebba, coinvolta una famiglia di Gorizia, e ancora in prima nella colonna di cronaca il tuffo con infortunio nel lago Sappada. In basso a destra poi a Fagagna l'asinella Luna ha vinto la 133esima corsa. Via della Seta, niente scalo in Friuli e l'apertura del Gazzettino. Il collegamento via treno con Duisburg non sarà riattivato prima del prossimo anno. Nella fotonotizia poi la discussione aperta sull'abbattimento dei cinghiali per controllare la diffusione della peste suina. Di spalla a Lignano la comunità energetica sul mare e poi le feste in città. Dopo Friuli Doc arriverà anche il Food Truck Festival. Il Piccolo di Gorizia e Monfalcone apre sulla sanità. Persi nell'Isontino 13 medici in 4 anni. Serve la riforma. Hanno pesato i pensionamenti e l'assenza di un ricambio. Fasiolo, della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, era prevedibile che ciò accadesse. In alto l'incidente di ieri mattina, 3 ciclisti falciati da un'auto, è successo a San Canzian di Sonzo. E poi ancora cronaca, 3 goriziani feriti a Pontebba per una retro sbagliata. A Monfalcone solo per pochi gli appartamenti di Casa Mazzoli e l'attacco della sinistra, con il consigliere comunale Morsolin che critica il bando. Di piede la regata isontina in 263 alla partenza e il concerto degli Editors, superato l'esame dalla Casa Rossa. Sul Gazzettino di Pordenone, a differenza della prima pagina dell'inserto del Friuli, un titolo di cronaca, auto rubata a Zoppola, è successo sabato, è spari in aria, ha preso il ladro, è stato denunciato un 20enne rumeno. Di spalla la Pordenone pedala, fa il pieno di presenze, 5.000 si legge sul quotidiano e pensa al futuro. E sotto Fiera dei Osei in 40.000 sacile per l'evento. A Fiume Veneto al parco rincorre lo scippatore, bottino recuperato, un altro titolo. cucciolo protagonisti due ragazzini, sia il ladro che quello che lo ha fermato. Sul Messaggero Veneto, nella fotonotizia, la Pordenone pedala, 4.000 ciclisti nell'edizione del cinquantennale. Di spalla mancano 10 milioni per realizzare la nuova casa di riposo a Villanova, tema che apre la cronaca cittadina di Pordenone. Sotto a Cordovado, dopo i negozi chiusi durante la trattativa con l'uomo che si era barricato in casa, c'è chi rinuncia a chiedere i danni. E ancora, anche qui, spari tra le case, un ventenne denunciato, identificato l'autore del furto dell'auto di un vigilante privato a Zoppola. Il ragazzo aveva sparato in aria dei colpi, ma non ha ancora restituito la pistola. Saranno presentati questa mattina nel cimitero di Sant'Anna a Trieste i lavori appena completati che hanno permesso la riapertura della scala di collegamento tra i campi 15 e 38. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Vuoio Fevelindi, che parlerà di Gianni Bravo, inventore del concetto di Made in Friuli e del marchio A3F Furlans, Fevelight Furlan, recentemente scomparso. Alle 11.20 andrà in onda Biblos Estate, alle 11.55 Parola di Cane, aggressivo o solo pauroso, ne parla Luca Niero, istruttore cinofilo ed esperto di riabilitazione comportamentale e di socializzazione. I programmi regionali tornano poi alle 14. Ed è tutto in regia, grazie ad Andrea Fontanote e Mauro Coloni, in redazione ha collaborato Manuel Bussani, dalla Razzani e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.